Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, abbiamo cercato sulla piattaforma Apple due buone idee anche questa settimana in cerca di finanziatori. Ne abbiamo selezionate un paio, tra poco ve le racconteremo. Una ha a che fare con il mondo green, l'altro con i giovani musicisti. Non dico altro, ne parliamo tra poco, però presentiamo i nostri ascoltatori giurati, che sono Roberto da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo già sentito prima, ha proposto De André nel nostro gioco di oggi, così come Mario da Napoli aveva chiamato per proporre Pino Daniele. Ben ritrovato. Salve, buongiorno. E poi abbiamo Lucia da Pescara, che non abbiamo ancora sentito, la terza giurata. Ciao Lucia. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'intrattenimento che fate ogni sabato. Grazie a te, Lucia, mille di essere con noi. Tre giurati per votare due progetti che vi andiamo a raccontare. Cominciamo col primo. Allora, il primo progetto, Young European Guitar Stars Festival Corde d'Autunno, è un corso estivo, un festival, un centro di alta formazione, laboratorio di musica, una rassegna di giovani concertisti al Castello Sforzesco, ma anche mostre di luteria, incontri nelle scuole. Tutto questo è Young European Guitar Stars, un progetto molto complesso che per decollare ha bisogno di 5.000 euro. E ce ne parla Marco Ramelli, che è il direttore artistico e l'ideatore di questo progetto. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Allora Marco, come sempre hai un minuto, secondo più secondo meno, per raccontare perché chi ci ascolta, i nostri giurati, dovrebbero scegliere di finanziare il vostro progetto che chiede appunto una mano, un aiuto. Perfetto. Young European Guitar Stars è un progetto che nasce da 20 giovani musicisti provenienti da tutta Italia, con l'obiettivo sia quello di diffondere la musica classica nei giovani, ma soprattutto quello di lavorare su temi più ampi come l'integrazione, le conoscenze delle varie culture e il dialogo interculturale. Abbiamo bisogno di un aiuto perché vogliamo dare la possibilità a alcuni dei più bravi giovani musicisti europei di suonare sia in posti importanti ma anche in scuole, soprattutto nelle scuole secondarie di primo grado, in modo da mostrare come la musica e la conoscenza di altre culture ha influenzato la loro vita, in modo da poter lavorare su un senso di appartenenza europeo che parte non solo dall'economia ma anche dalla cultura e in questo caso anche dalla musica. E secondo me è importante cercare di lavorare soprattutto con i ragazzi. E tutti noi siamo concertisti ma siamo anche insegnanti. Gong, ecco il gong. Gong. Perfetto, Marco. Io ho una curiosità, quando dici giovani, che età ti riferisci? Io ho visto le foto, molto molto giovani. Sì, quasi tutti siamo under 30, 35. Sì, ma volete far suonare anche i ragazzi molto, anche più giovani ancora? Per i ragazzi, sì, per i ragazzi suonano alcuni, diciamo, dei concertisti sono vincitori di importanti concorsi, hanno sui 20 anni, 25, ma abbiamo anche laboratorio di orchestre, di chitarra, in cui facciamo suonare assieme bambini dalle Proprio bambini. Sì. Per una volta sono giovanissimi. Ti faccio anche una domanda brevissima, ma quando parli di suonare parli solo di chitarra o anche altri strumenti? Altri strumenti con chitarra sempre, organizziamo sotto concerti anche con dui o tri, in cui la chitarra però è sempre presente, diciamo, è un po' il filo conduttore di tutto il festival. Perfetto. Hai qualcosa su, per quanto riguarda le ricompense, in pochi secondi da dire? Sì. Abbiamo ogni ricompensa è dedicata a un compositore che ha scritto per chitarra classica e per esempio per chi vuole donare sui 30 euro avrà la possibilità di avere sia ringraziamenti, l'adesivo del festival ma anche due CD di chitarra classica e così ci sono altre donazioni in cui doniamo. Pronto? Forse è caduta la linea. Al momento di svelare la grande ricompensa. Va bene, però abbiamo capito. Marco, okay. Eccolo qua, sì, perfetto. Perfetto, il primo progetto lo abbiamo spiegato. Cari giurati, Lucia, Mario e Roberto, restate belli concentrati perché vi presentiamo il secondo progetto. Allora, il secondo progetto si chiama Eco Lab ed è un network di orti, coltivatori, ma anche semplici cittadini e amici che promuovono un'agricoltura sana e sostenibile nell'area metropolitana di Milano. L'idea è quella di realizzare una piattaforma web per consentire lo scambio di contatti, ma anche di prodotti e di conoscenze, ma per realizzarla servono 7.500 euro. Ce ne parla Alessio Pinzone, che è il portavoce di questo progetto Ecolab. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Allora Alessio, anche a te ho più o meno un minuto di tempo per raccontare perché questo progetto dall'anima green in una città piuttosto grigetta invece come Milano deve avere l'aiuto, il finanziamento, il sostentamento degli ascoltatori, ma anche e soprattutto dei nostri giurati. Alessio. Sì, Ecolab è un progetto sociale che mira a diffondere la conoscenza degli orti e proprio i giardini a Milano e provincia. Quello che noi vorremmo fare è creare un luogo di incontro e formazione per spiegare a tutti, sia diciamo, più grandi e più piccoli, come nasce un fiore, un frutto, coltivare, oppure semplicemente far sopravvivere le proprie piante in casa o sul balcone. Inoltre in realtà vorremmo realizzare un'applicazione sul telefono che permette a chiunque di localizzare e conoscere in maniera rapida e intuitiva gli orti e i giardini vicino a lui, postare foto, video, commenti, creare gruppi di discussione, conoscere nuovi amici con la stessa passione, o rispondere ed aiutare qualcuno che ha bisogno di un consiglio. Ogni azione che verrà fatta dagli utenti verrà ricompensata con della moneta virtuale che avrà un vero e proprio valore all'interno della community e quindi potrà essere anche spesa per partecipare ai corsi sugli orti, avere delle ceste di frutta e verdura, avere degli sconti per l'acquisto di attrezzature. Infine è quello di sensibilizzare la cittadinanza a essere, avere una vita più sostenibile e rendere visibile una realtà esistente che è quella di Orti Giardino e con le loro feste e attività. Perché no, magari eleggere anche il giardino più sostenibile di Milano oppure farà vivere il prossimo gong. Un gong lunghissimo che in realtà dà il tempo per continuare a parlare. Alessio, allora sulle ricompense ci hai già illustrato. Io ho una curiosità: quante persone pensi che possano essere interessate da questo scambio di informazioni su chi ama il verde a Milano? Sono tanti? Ma più di quelli che ci aspettavamo in realtà, sia perché le aree verdi a Milano sono aree destinate a persone diciamo estremamente danarose. Chi ha un giardino a Milano si può permettere un terrazzo, è una persona diciamo che vive già in maniera agiata, per cui avere un luogo dove ci si può incontrare, dove spiegare magari anche ai propri figli come nasce un frutto o qualcosa, insomma, è per renderlo accessibile veramente a tutti. Benissimo, esatto. Grazie Alessio. Grazie. Allora, cari giurati, Roberto, Lucia e Mario, cominciamo con Roberto. Quale dei due progetti vi ha convinto di più? Ecolab, il progetto green che abbiamo appena sentito a Milano, o il progetto per i giovani chitarristi che vanno a suonare qua e là? Roberto? Per me il primo, quello dei giovani musicisti. Perfetto. Per quale motivo? C'è una ragione, Roberto? Sì, c'è una ragione, perché è stato un mio sogno nel 63 poter far parte di uno dei complessi sulla scia dell'Equipe 84. Avrei voluto saper suonare il sax. Il maestro mi disse che da me mi stava rubando i soldi perché non c'era speranza. Fare una nota. Ah, quindi Roberto, sarebbe un modo per recuperare questa tua vecchia passione. Sì, no, i giovani così che vedono nella musica e nella cultura un loro futuro. Va bene, sentiamo malissimo Roberto, forse sei in viaggio, non so, sentiamo un rumore di sottofondo assordante, però il voto è chiaro. Ai giovani chitarristi, al progetto Young European Guitar Stars, il primo voto. Mario da Napoli, il secondo voto. Per chi ti sbilanci? Sicuramente per il progetto musicale. Ah, secondo voto per i chitarristi. C'è un motivo, Mario? È semplicissimo, perché secondo me la salvezza del pianeta passa attraverso la diffusione della sensibilità e della cultura, altrimenti siamo fregati tutti. Poi d'altra parte tu hai chiamato per parlare di Pino Daniele, quindi la chitarra oggi giocava in casa. Vediamo se arriva un voto almeno per Ecolab, il progetto green. Lucia da Pescara, cosa preferisci? Allora, pur essendo io molto green, devo dire che la prima proposta è molto russiana e quindi mi stimola, anche perché sono anch'io una melomane, sì. E quindi vedere la musica sempre al primo posto nell'interesse di un ragazzo, di un giovane, e reputo questa cosa molto positiva, molto, molto bella. Ripeto, l'ho trovata comunque molto russiana per tutta una serie di ragioni che non so se ho tempo di spiegare. Il multiculturalismo, sì, l'integrazione, però nonostante questo l'integrazione molto... ruffiana? No, dico, la proposta l'ho trovata molto ruffiana. Sì, questo chi l'abbiamo può, capito. Chi può estraniarsi, esentarsi dal dire che è una bella cosa? Nessuno, ecco perché l'ho trovata ruffiana. Certo. E proprio per questo, voglio dire, voglio premiare più, come dire, il metodo, il modo cercato, trovato, che la proposta in sé, che è indiscutibile, insomma. Vabbè, la musica è la musica, appunto. Quindi a te in qualche modo questa ruffianeria è piaciuta. In ogni caso mi sembra di capire che il giudizio inappellabile, inesorabile dei nostri giudici oggi è un 3-0 secco per Young European Guitar Stars, che quindi è il nostro vincitore. Però ricordiamo, ricordiamo ovviamente che non è una gara, non è che c'è un vincitore e l'altro progetto finisce qui. Entrambi i progetti sono sulla piattaforma. Avrei votato Ecolab, tanto per dire, forse perché sto stando a Milano. Anch'io avrei votato Ecolab. Anch'io avrei votato Ecolab perché mi piaceva trovare dove sono gli orti e magari riuscire ad andare a mangiare un'insalata di pomodori a Milano da qualcuno che ha l'orto, perché tu io non ce l'ho e non ho neanche terrazzo. Insalata di pomodori, io pensavo a come far sopravvivere magari una pianta che hai sul balcone. Il basilico. Ma è già morto il mio basilico estivo, come tutti gli anni. Grazie abbiamo ad Alessio Pinzone di Ecolab e a Marco Ramelli di Young European Guitar Stars. Un saluto, complimenti intanto per le vostre iniziative. Le trovate tutte sulla piattaforma di Apple. Ci risentiamo la settimana prossima, ma come si può fare? Andiamo avanti. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.